anzi succida. Succeda? Sì, che puote esser re di più mani l'indugio del comando. A lei, regina, vacilla il tuo destino, se gli manca. E il tuo primo periglio è la pietade, ite veloci ad eseguire il cenno.